della storia, una storia primordiale, che è fatta appunto di racconto prima ancora che avesse la possibilità di essere scritto. Ecco, io credo di aver compiuto un'operazione di recupero che, diciamo, mi ha dato la possibilità di far conoscere questi racconti scrivendoli, trascrivendoli, ma diciamo con molto rispetto delle fonti. Ecco, le rivolgo la stessa domanda che Alessandro Portelli le rivolge nell'introduzione, cioè qual è il senso oggi del recupero di queste memorie che sembrano appartenere a un mondo lontanissimo dalla civiltà in cui viviamo? Questo è un grosso problema, perché nelle ultime pagine c'è anche qualche pastore che spiega in maniera molto chiara, netta, l'abbandono della pastorizia. Cioè era una vita particolarmente dura, e quindi i giovani che poi sono riusciti a studiare, e io nelle scuole superiori, nell'istituto tecnico superiore, ho avuto anche figli o nipoti di pastori che mi hanno aiutato anche nelle mie ricerche. Naturalmente il giovane difficilmente poi si dedicherà alla pastorizia, e tuttavia mi è capitato alla presentazione del libro al Festival dei Senti di Locorotondo, che dopo la presentazione si è avvicinato un signore per avere la dedica sul libro e mi ha detto: io ero professore di filosofia antica, professore associato quindi di carriera all'Università di Napoli, adesso faccio il pastore transumante in Svizzera. Cioè ci sarà, credo probabilmente, e mi pare che già ci siano dei sintomi in questo senso, di persone che, stanche della vita caotica delle città, voglia ritornare a un rapporto con la natura. Grazie professor Colitti e grazie a lei. Congratulazioni per questo bel libro. Buona serata. Grazie e buonasera anche a lei e a tutti gli ascoltatori. La storia e la memoria. Bentornati alla seconda parte della storia e la memoria. Radio 24, in collaborazione con History Channel, vi presenta un approfondimento dedicato alle imprese di un gruppo di alpini nazisti tra gli anni 30 e 40. Le montagne più alte del mondo offrono le sfide giuste per una vita eroica e per mettere in pratica concetti come il cameratismo militare spinto all'estremo e la totale dedizione a un leader. La conquista della cima viene vista in relazione alla forza e alla tenacia celebrate in Germania dall'ideologia nazionalista. Vi ricordiamo che la versione integrale del documentario andrà in onda lunedì 15 luglio alle 22 su History Channel. Gangotri, un luogo di pellegrinaggio colmo della magia e del mistero dell'India. Qui il tempo sembra essersi fermato. Bruno Baumann, alpinista ed esperto dell'Himalaya. Siamo arrivati sul massiccio montuoso del Garhwal Himal, perché è vicino al confine tibetano. Non lontano da qui sono passati Heinrich Harrer e Peter Aufschneider in volo verso il Tibet. La storia è narrata nel bestseller di Harrer, 7 anni in Tibet. Abbiamo anche seguito le tracce di un'interessante spedizione austriaca che si è tenuta nel 1938 allo scopo di scalare per la prima volta molte cime. Dal 1918 al 1938 gli alpinisti tedeschi e austriaci hanno organizzato solo 10 spedizioni sull'Himalaya. La spedizione esplorativa di 3 mesi sul Garhwal, guidata dal più famoso scalatore dell'epoca, Rudolf Schwarzgruber, è un'impresa eccezionale. Ancora l'alpinista Bruno Baumann. Prima hanno dovuto superare tutte le monotone colline basse dell'Himalaya. I rifornimenti e l'equipaggiamento necessari hanno richiesto una lunga preparazione e il carico è risultato di volume enorme. Quando sono arrivati quassù, si sono dovuti confrontare con cime altissime, che erano ancora, per buona parte, terra incognita. Quasi nessuno dei picchi era mai stato scalato. Una situazione molto diversa da quella odierna. I pionieri della montagna, tra le due guerre mondiali, devono testare i propri limiti e compensare la mancanza di velocità e di esperienza con la resistenza fisica. Questo gruppo di esperti alpinisti sopravviverà anche ad un'altra prova. La Prima Guerra Mondiale è un'esperienza che segnerà le loro vite. Gli uomini di questa generazione hanno passato anni nelle trincee e sui campi di battaglia sulle Alpi austriache, lungo la valle dell'Isonzo. Gli anni trascorsi al fronte militarizzano la loro visione del mondo. Una volta perduta la guerra, nasce in loro il desiderio di rivalsa, sensibile al nazionalismo e alle ideologie autoritarie. La montagna non rappresenta più una romantica esperienza nella natura selvaggia, ma una lotta politica per la sopravvivenza. La conquista della cima viene vista in relazione alla forza e alla tenacia celebrate in Germania dall'ideologia nazionalista. La spedizione del 1938 non fa eccezione. L'esplorazione del Garval è una faccenda politica. Viene finanziata dal cancelliere austriaco filonazista Seyss Inquart e da altri leader nazisti. Il capo della spedizione, Rudolf Schwarzgruber, mette in chiaro che si tratta di una spedizione tedesca, non austriaca. Ancora l'alpinista Bruno Baumann. Eravamo tutti affascinati, io in particolare, dai risultati. E in un certo senso chiudevamo un occhio sui personaggi e la loro ideologia. La motivazione ideologica di questi antichi eroi è stata un argomento tabù per decenni. Ma Bruno Baumann si è posto degli interrogativi su di loro. Ha scoperto che sono accademici, alpinisti estremi, uomini politicamente motivati. Le loro spedizioni sono guidate da forza di volontà, risolutezza e convinzione che servano alla causa del regime nazista. Rudolf Schwarzgruber si iscrive al partito nazista nel 1931. Per non mancare l'Anschluss, che sancisce l'unione dell'Austria al Reich, ritarda la spedizione esplorativa sul Garval. Paul Bauer, iscritto al partito nazista nel 1933, diventa il leader della fondazione tedesca Himalaya, l'elite degli alpinisti di Hitler. Chiede che le spedizioni siano governate secondo principi militari. Peter Aufschneider si iscrive al partito nel 1933. In qualità di presidente della fondazione Himalaya, recluta gli alpinisti secondo criteri politici. Heinrich Harrer, membro dell'SA dal 1933. La sua prima scalata alla facciata nord dell'Eiger lo rende la punta di diamante della propaganda nazista, conducendolo alla fondazione Himalaya. Ancora l'alpinista Bruno Baumann. Harrer, carrierista ed estroverso, proiettato in un'ascesa incontenibile dopo la sua scalata della parete nord dell'Eiger, che lo porta alla fondazione Himalaya. I nazisti lo considerano colui che aprirà la strada verso l'Himalaya. Peter Aufschneider era noto come una persona introversa che non parlava del privato, finché ho scoperto che ha avuto un ruolo chiave nella fondazione Himalaya. E fin dal principio è diventato intimo amico di Paul Bauer e si è impegnato in politica. Da questo si intuisce che dal punto di vista ideologico andasse d'accordo con gli altri. Era un simpatizzante nazista. Non c'è altra spiegazione, se si tiene conto di quanto fossero selettivi i criteri per essere accettati in questo circolo di élite. La fondazione Himalaya decide chi sarebbe salito fino alla cima. Per ben 5 volte una squadra di tedeschi e austriaci cerca di conquistare il Nanga Parbat. Questa cima, alta 8.000 metri, viene esaltata come il picco del destino della Germania. La propaganda avrebbe paragonato chiunque sarebbe morto sulla montagna ai soldati al fronte che sacrificano eroicamente la propria vita per la Germania. Per il regime nazista, le spedizioni sull'Himalaya sono viaggi eroici che dimostrano al mondo la superiorità della razza dominante. Gli esperti di genetica razziale di Himmler si recano in Tibet. Nell'autunno 1938 l'ufficiale dell'SS, Bruno Beger, prende misure antropometriche dei nomadi usando gli stessi metodi applicati in Europa per distinguere i subumani dalla razza dominante. Gli studi razziali, che prevedono anche calchi del cranio, sono parte di un programma di esplorazioni sovvenzionate dalle SS. Questa particolare spedizione da Calcutta a Lhasa, capitale del Tibet, dura più di un anno. È guidata dal biologo e ufficiale dell'SS Ernest Schaeffer. Bruno Baumann, alpinista ed esperto dell'Himalaya. La spedizione di Schaeffer aveva lo scopo di rintracciare i discendenti di antiche popolazioni ariane in Tibet. I fondamenti della sua teoria erano in un libro letto da Himmler, che trattava della dottrina segreta della scrittrice russa Blavatsky, la quale sosteneva che Atlantide fosse veramente esistita e fosse una città con una civiltà altamente avanzata e una popolazione in possesso di facoltà soprannaturali. Atlantide sarebbe sprofondata in mare, ma parte degli abitanti sarebbero sopravvissuti e si sarebbero trasferiti altrove. Lo stesso Bruno Baumann ha intrapreso spedizioni in tutto il Tibet. Ai suoi occhi, la spedizione del 1938 è un esempio lampante di come le esplorazioni siano cambiate sotto il regime nazista. Baumann paragona la scelta delle rotte, gli obiettivi e i membri del corpo di spedizione del 1938 alle esplorazioni del Tibet che non sono state finanziate dai nazisti, giungendo alla conclusione che l'oggettività scientifica abbia ceduto il posto a studi commissionati di stampo razzista, mentre la scelta dei membri della spedizione era motivata politicamente. Ancora l'alpinista Bruno Baumann. Nel caso di Schaeffer, i criteri erano, cito testualmente, non dimenticare mai che ogni membro della spedizione deve essere un sostenitore della filosofia nazionalsocialista. Un'altra citazione, obbedienza incondizionata al leader della squadra. Non abbassare mai le barriere naturali tra altre razze straniere, ma non trattarle come umani di seconda classe. Questo ultimo punto è valido specialmente per gli antropologi, per non precludersi l'avvicinamento a gente di altre razze e ai loro animi. Il pioniere dell'alpinismo, Rudolf Schwarzgruber, muore in combattimento sul Caucaso nel 1943. Paul Bauer continua a presiedere la fondazione Himalaya dopo la guerra. I suoi trascorsi nazisti non gli sono di ostacolo. Aufschneider e Harrer diventano famosi con il romanzo Sette anni in Tibet. Entrambi approfittano della popolarità del Dalai Lama, che copre il loro passato di nazisti. Avete ascoltato il documentario realizzato in collaborazione con History Channel dal titolo Hitler e i suoi Indiana Jones. Regia Tom Matzek, titolare dei diritti Fox International Channels Italy. Casa di produzione Orf Film Media. Vi ricordiamo inoltre che la versione integrale del documentario andrà in onda lunedì 15 luglio alle 22 su History Channel. Un ringraziamento in redazione a Gloria Guerrera e Anita Panizza. La storia e la memoria vi dà appuntamento a sabato prossimo. Buonanotte.